che potrebbe stupirvi, perché più che un museo è un parco a tema. Ci sono veri trattori e poi treni a vapore e le ricostruzioni verosimili del mondo contadino. Lungo il percorso ci sono pulsanti che attivano audio guide in stereofonia, effetti sonori e tutti gli ambienti da scoprire. E poi c'è il parco giochi, gli animali da cortile e l'area picnic immancabile, attrezzato anche per i più piccoli con il passeggino al seguito. Tornando verso Roma e facendo una piccola deviazione verso l'interno, un altro posto che vale la pena di vedere è il Parco di Paliano, più precisamente la Selva di Paliano, tornata a vivere questa primavera dopo fortune alterne. Una volta era il più grande parco uccelli d'Italia. Il weekend al mare invece ci porta in Liguria. A settembre, quando il caldo è sopportabile, potrete approfittarne per parcheggiare l'auto a Portofino o arrivarci in autobus e incamminarvi per il sentiero che porta a San Fruttuoso. Vale per la spiaggia, per il colore dell'acqua, per il Cristo degli Abissi e per la camminata, che a tratti è un po' impervia e sicuramente faticosa, ma è assolutamente fattibile per tutti, anche per i più piccoli. Già che siete in zona, fermatevi poi a Paraggi. Il costo di una giornata in spiaggia a Paraggi non è indifferente, ma il turchese del mare è veramente impagabile. Poco prima di Santa Margherita c'è San Michele di Pagana, che è un'ottima alternativa anche per il mare e l'occasione soprattutto per entrare nell'omonima chiesa e ammirare il Cristo del Van Dyck. Ed è tutto anche per questa settimana. Alla prossima!